America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. If you want to buy a gun, whether it's from a licensed dealer or a private seller, you should at least have to show you are not a felon or somebody legally prohibited from buying one. This is common sense. And an overwhelming majority of Americans agree with us on the need for universal background checks, including more than 70% of the National Rifle Association's members, according to one survey. So there's no reason we can't do this. Il presidente Barack Obama, un intervento deciso, devo dire anche emotivo, un intervento di peso per cercare di riportare ordine in questa giungla che è il mercato delle armi negli Stati Uniti d'America. Barack Obama vuole imporre dei controlli. Ieri ha annunciato il suo piano. As soon as I'm finished speaking here, I will sit at that desk and I will sign a directive giving law enforcement, schools, mental health professionals and the public health community some of the tools they need to help reduce gun violence. Un piano complesso, quello del presidente Obama, lo avete sentito. Da una parte il presidente metterà a punto un progetto di legge che porterà in Parlamento la settimana prossima. È un progetto di legge che richiede una ricerca di background e quindi del passato, fedina penale pulita, attività criminali inesistenti e in questo caso il presidente vuole aggiungere anche cartelle cliniche che dimostrino che la persona è equilibrata dal punto di vista psichico. Il presidente vuole anche togliere dal mercato della vendita pubblica le cosiddette armi semiautomatiche, armi pesanti, per intenderci armi come quella che è stata usata per l'eccidio di Newtown, per la Sandy School, dove sono stati uccisi 20 bambini. Infine, il presidente vuole ridurre le dimensioni dei caricatori. Questi caricatori potevano tenere fino a 30-40 proiettili. Ecco, l'idea è che non ne possano tenere più di 9. L'intervento di Obama, devo dire, è stato molto emotivo. C'erano dei genitori dei bambini uccisi a Newtown, c'erano dei ragazzini presenti in aula. Il presidente ha ricordato il suo incontro con i genitori di questi bambini uccisi, era davvero sinceramente commosso. Il momento, dal punto di vista dell'introduzione di misure che limitino la diffusione delle armi, non potrebbe essere migliore, però ci sono resistenze molto forti, perché il presidente, oltre alla proposta di legge che porterà in Parlamento la settimana prossima, ha firmato subito dopo il suo annunzio, ha firmato, vi dicevo, 23 ordini esecutivi. Sono degli ordini esecutivi che prevedono dei chiarimenti su leggi già esistenti, su come applicarle. Vi faccio un esempio: i dispositivi di sicurezza per certe pistole, per certi fucili devono essere migliorati, come devono essere migliorati e così via, così via. Ecco, la reazione mi ha colpito. Stati come il Mississippi, il governatore del Mississippi ha detto che lui respingerà qualunque intrusione del governo federale in quelle che sono le regole e le leggi dello Stato. E immagino che lo stesso faranno Wyoming, Montana, South Dakota, che sono degli stati ad altissima densità di armi. Mi ha colpito ad esempio la dichiarazione di un deputato del Texas, Steve Todd, che si è inserita in un dibattito che ha dominato le televisioni americane. Sentiamo. Not more false promises. Well, we know nothing works, Alex. Is the president, for example, going to start enforcing the laws that we already have? His attorney general. Ecco, questo era un dibattito su CNN dove un repubblicano favorevole alla liberalizzazione e alla vendita delle armi aggrediva, attaccava la sua controparte nel dibattito, che era un analista democratico, il quale invece difendeva l'idea del presidente Barack Obama di introdurre questi limiti. Ma cosa ha detto il signor Todd? Perché devo dire, mi ha colpito davvero. Bene, le sue parole sono esattamente queste. In Texas, Todd, vi ho detto, è un deputato repubblicano del Texas. Dunque ha detto: in Texas faremo di tutto per evitare che queste regole presentate dal presidente Obama siano introdotte. È una ingiustizia limitare le nostre attività, perché il nostro diritto ad armarci deriva da Dio e dalla Costituzione. Pensate che parole. Se questo governo, continua Todd, viola il secondo emendamento, daremo battaglia legale. Ecco, l'idea è che Barack Obama con questo suo intervento vada a violare il secondo emendamento della Costituzione, che consente a tutti gli americani di armarsi, diciamo, come meglio credono. Questo secondo emendamento è stato oggetto di analisi, dibattito, sono stati introdotti comunque dei limiti. E la cosa che mi colpisce è che c'è questa polemica su delle proposte di introduzione di regole, non so, controllo sull'equilibrio della persona che vuole comprare delle armi, non vendiamo delle armi semiautomatiche o dei caricatori che abbiano troppi proiettili. Insomma, mi sembrano delle cose assolutamente normali. Non, da noi sarebbe considerato così normale il fatto che ci siano dei limiti. Obama lo ha sottolineato, ha detto: io non voglio in alcun modo interferire col secondo emendamento alla Costituzione, tutti saranno comunque liberi di comprare le armi, però dovranno sottoporsi a un minimo di controlli, dobbiamo essere sicuri che queste armi non vadano a cadere nelle mani di persone pericolose. Dopodiché il presidente ha chiuso il suo intervento con queste parole. So I'm putting forward a specific set of proposals based on the work of Joe's task force. And in the days ahead, I intend to use whatever weight this office holds to make them a reality. Userò tutto il potere che mi deriva dal mio ruolo di Presidente degli Stati Uniti d'America per far sì che queste mie proposte arrivino in porto. Ma c'è anche un altro livello, devo dire, piuttosto brutto, piuttosto oscuro, perché la National Rifle Association, cioè l'Associazione dei Portatori d'Armi Americani, la famigerata NRA, ha diramato uno spot anti-Obama in cui fa vedere le figlie del presidente che vanno a scuola e che hanno la protezione degli agenti del servizio segreto. Lo slogan dello spot è: bene, il presidente è un elitista, va bene se le sue figlie hanno la protezione di uomini armati, ma non va bene se noi proponiamo che ci siano uomini armati nelle scuole per proteggere i bambini. Ricorderete che questa associazione aveva chiesto come soluzione al problema del rischio di una strage che ci fossero in tutte le scuole americane delle guardie armate che potessero intervenire e proteggere i bambini da un eventuale attacco, proposta che ovviamente è stata respinta. Ma il fatto che questa associazione si sia spinta a usare l'immagine delle figlie del presidente, direi condivido quella che è stata la reazione di Jay Carney, il portavoce del presidente, il quale ha detto che una strategia di questo genere è ripugnante e vile, e aggiunge: la maggior parte degli americani è d'accordo sul fatto che le figlie del presidente non dovrebbero essere usate come pedine in una battaglia politica, ma spingersi così oltre da mettere la sicurezza delle figlie del presidente al centro di un attacco è davvero inaccettabile. Bene, devo dire, condivido queste parole di Jay Carney. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Abbiamo parlato di armi, abbiamo parlato di controllo di armi, speriamo che ci sia questo controllo di armi, quindi mi sembra giusto restare in tema con una canzone che affronta la problematica, scritta da RZA, uno dei grandi dell'hip hop americano, e di RZA vi faccio ascoltare Put Your Guns Down. Put your guns down, shoot a few rounds, 52 blocks, put that ass on the ground. Rocket launch on my shoulder, world's getting colder, looks like I'm racking, I'm just a soldier. Niggas treat, yo, check it, yo, yo. Welcome to the city of God, where it's gritty and hard, and these dogs walk around at least 50 a squad, saying, give me a yard, trying to split me abroad.